Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti e buon pomeriggio da Luca Tremolada. Oggi abbiamo una missione fantastica. Oggi renderemo giustizia a tutti quei complessi che non sono nati perché, per esempio, mancava il bassista. Il bassista che è sempre difficilissimo da trovare, certo. Ora invece avremo un modo per trovarlo. Ecco, metti che tu vivi in un paesino dove c'hai il batterista, c'hai la cantante, c'hai il chitarrista, anche tre chitarristi, certo. C'hai anche tre chitarristi, ma manca il bassista. Oppure manca quello che suona i bonghi e vuoi fare reggae. Ecco, per fortuna che c'è internet. Questa è una frase che diremo tutte le puntate, anche a sproposito, però quello di cui vogliamo parlarvi è di Towns, che è un social network. Che cosa fa questo social network? Che è una sorta di Twitter dei suoni. Towns ci aiuta a remixare le tracce. Un Twitter dei suoni, cioè praticamente io sono un grande bassista. Hai bisogno che io ti aiuti con un'altra traccia, però io abito per esempio a Roma. Come cosa possiamo faccio? Fare a suonare insieme? Noi possiamo creare una sala prove online e quindi io suono e carico la mia traccia su internet. Tu suoni e carichi la tua traccia su internet. Luca Dello Jacopo, che non ho ancora presentato, che presento subito, ha spiegato bene, ma il vero colpevole di Towns, che ricordiamo una crasi tra pensieri e suoni, è Francesco Fraioli. Buongiorno Francesco. Ciao a tutti. Allora, sentiamo subito nella scheda di Luca Dello Jacopo chi è Francesco Fraioli. Arte, fumetti e musica sono le passioni di Francesco Fraioli. Classe 1983, è nato a Venezia, ma il suo vero interesse è per le canzoni. La sua tesi di laurea prevedeva la progettazione di un social network per le collaborazioni sonore attraverso il web. Il sogno diventa realtà. Nasce Towns, grazie al supporto dell'incubatore H-Farm. Il sito permette alle persone di unire tracce musicali e improvvisare canzoni, e da oggi è accessibile online. 824 0024, partisti che volete chiamare in trasmissione per capire come realizzare il sogno, insomma, di avere un complesso anche senza dover guardare negli occhi il chitarrista, perché magari vi sta pure antipatico. 349 238 6666, l'SMS. Ma torniamo a Fraioli. Fraioli, una curiosità. Tu hai creato questo social network perché fondamentalmente ti mancava il bassista. Esatto. Esatto. Perché fondamentalmente non ho mai avuto un gruppo. Ed era il sogno della tua vita, dillo che era il sogno della tua vita. Sì, era un po' il sogno, sì, della mia vita. No, com'è nato? Sì. Com'è nato Towns? E tra l'altro mi dicevi che è nato oggi. Sì, praticamente oggi è proprio il primo giorno di vita del sito, è su da poche ore. E sei felice? Sì, sono abbastanza felice e agitato allo stesso tempo. No, lo sentiamo. Ma ecco, raccontaci, cioè, sei nato nella cameretta, cioè come nasce il progetto di condivisione di tracce musicali? Allora sì, il progetto nasce, come penso sia stato detto, da una tesi di laurea. Quindi ci avevi già lavorato all'università, sì, insomma, su questa idea. Sì, all'università avevo proprio portato come tesi di laurea proprio questo social network per condividere brani musicali e lavorare insieme tramite il web. E poi ho avuto l'enorme opportunità di presentare appunto la tesi di laurea in H-Farm un anno fa. E insomma ho avuto l'opportunità di portare avanti questa idea, che ovviamente è stata un secondo poi. Solo che c'è Luca Dello Jacopo che ti deve sì, interrogare. Ecco, Francesco, le tue intuizioni poi come mi raccontavi li riversi su Towns, e quindi quando vuoi esprimere qualcosa usi Towns per dare corpo musicale a quello che senti. Allora sì, praticamente diciamo che i cosiddetti utenti che dovrebbero popolare Towns non sono solo ovviamente musicisti professionisti o musicisti che hanno una band, ma anche tutti quelli che, a cui piace proprio la musica, quindi a cui piace esprimersi, ma magari hanno sempre avuto magari qualche paura a esprimersi nel mondo della musica, così, cioè, quindi è anche un po' per i timidi, in effetti. Eh? È anche un po' per i timidi, sì, della musica. È un po' per i timidi, perché alla fine quando ti viene un'intuizione, cioè quando ti viene in mente qualsiasi cosa di anche orecchiabile, e magari non hai neanche uno strumento, magari non suoni neanche uno strumento, ma ti viene proprio una cosa di vocale o... Ecco, ma timidi, sì, la registri. Ecco, ma sentiamoli questi timidi della musica. Tra l'altro, i timidi che stanno ascoltando la trasmissione, chiamino all'824-0024 e proviamo a sentire un po' il prodotto, questo file musicale che ci hai mandato, per anche capire di che cosa stiamo parlando. Vabbè, cioè, no. Secondo me, guarda Luca, questo è jazz 2.0. Qua ecco, c'è bello. Improvvisazione. Qui si, cioè, c'è spirito. Senti che c'è il tentativo di dare vita a qualcosa. Sa qual è la sua fortuna, Francesco Fraioli? Io le do del tuo e del lei contemporaneamente. Che qui abbiamo Luca Dello Jacopo, che è un appassionato. Perché io, già che ho gli ascolti musicali molto basic, sono molto pop, normale. No, tra l'altro io insisto, cioè, perché ne abbiamo anche un'altra di traccia, per cui insistiamo. Nella regia mi fanno dei gestacci, toglielo. Ma questo è un signore simpatico sicuramente, che fa la trombetta con la bocca, la no? trombetta, esatto, ecco, che è fantastico, che però un domani la trombetta con la bocca diventa il là per, non so, io sono sempre il famoso bassista di cui continuiamo a parlare e ci metto su una base. Esatto, e quindi anche uno che praticamente non è un musicista professionista può avere a che fare con un trombettista, magari un turnista che è importante, e quindi cioè, diciamo così, che lo spirito è proprio quello di creare questi spunti musicali, è come se fosse uno sketchbook online per fare musica, come, cioè, questo è lo spirito, diciamo. La filosofia infatti è quella anche di non aver paura della qualità, ma di buttare su quello che... c'è quello che si pensa musicalmente in quel momento. Tra l'altro, questa idea del condividere le tracce musicali non è neanche tanto un tema da geek, da esperto informatico, da appassionato del web 2.0. Adesso faccio una citazione molto bassa, però insomma, X-Factor, cioè a X-Factor, i telematici Luana Beats, che voi non conoscerete perché avete un po' la puzza sotto il naso, non guardate, c'è qui Luca Dello Jacopo che mi fa i gesti schifati, non guardate questi tipi di programmi, io invece li guardo. Questo gruppo almeno dice di provare con Skype, per cui loro sono un gruppo, una boy band, da quello che ho capito, adesso faccio finta, ma neanche io so benissimo chi sono questi signori, che uno sta a Milano, l'altro sta a Napoli, un altro sta in un'altra città e provano contemporaneamente via Skype. Non so se questo sia una trovata per distinguersi, quindi una trovata marketing, oppure sia reale. Certo, il network di Fraioli rende concrete queste possibilità. Tra l'altro ci segnala Marco Minghetti, che è un blogger di Novacento. Novacento è l'aggregatore di blogger indipendenti di Nova, che esiste tale Cutiman. Tu lo conoscevi, Dello Jacopo? L'ho conosciuto grazie a Marco e mi ha entusiasmato, perché secondo me è un creativo. Ecco, ti racconto subito chi è Cutiman. È un compositore israeliano di 27 anni che è riuscito a comporre 7 canzoni senza aver composto una sola nota. Cosa ha fatto? Ha sostanzialmente preso da YouTube le tracce musicali, ha campionato centinaia di strumenti, la chitarra, il basso, la batteria, i sintetizzatori, eccetera eccetera, e poi le ha composte in un unico video. Il risultato lo sentiamo in questo momento. Well, what can I do? You could play that 16th note groove just straight. Going, you'll be amazed. Okay. Do it again. All right. Okay. Ecco, questo è questo video lo trovate su YouTube. Noi scriveremo tutti i link da Towns a tutte, insomma, le citazioni che hanno un'interfaccia internet, le troverete sull'account NovaLab24. Che ci si arriva, Luca? Scrivendo www.twitter.com/NovaLab24. L'abbiamo anche letto insieme, che meraviglia. Però ecco, questo è un altro artista che sostanzialmente ha campionato e ha composto musica. Tu cosa ne pensi, Francesco Fraioli? Sì, non posso non nascondere che avevo visto questo video mentre stavo lavorando su Towns e mi era piaciuto tantissimo, tant'è che è veramente stato una fonte molto di ispirazione, anche perché comunque YouTube rimane un'immensa libreria di contenuti creati dagli utenti, e il fatto che lui abbia fatto questo video prendendo pezzi da tutti quelli che fanno tutorial musicali, tutti i vari musicisti che mettono le proprie lezioni online, a me era piaciuto moltissimo, anche perché poi viene fuori comunque un pezzo musicale molto molto bello, cioè, sì, molto lungo, molto lungo, molto lungo, va detto, è un lavoro molto... veramente fatto bene. Dimmi, Luca. Ma non è che c'è un po' di pigrizia comunque in questo modo anche di fare musica? Cioè nel fatto di comunque stare seduti e poi mettere insieme le sonorità? Secondo me rimane comunque un lavoro creativo di alto livello, anche se si fa questo tipo di taglia e cuci. Copia e incolla, chiamiamolo copia e incolla. Sì, taglia e cuci. È un po' più figurato. Esatto, e copia e incolla, però ovviamente non comporta un'azione diretta dal punto di vista musicale, ma una specie di composizione a tavolino molto certosina sicuramente di tutte le varie parti. Ecco, noi abbiamo in collegamento Giordano San Giorgi del MEL, fondatore delle etichette indipendenti. Buongiorno. Buongiorno, sentiamo, grazie a voi per l'invito. Grazie a te. Sentiamo immediatamente la scheda che ha redatto Luca Dello Iacovo. Un festival che riunisce le etichette indipendenti è il MEI, fondato da Giordano San Giorgi. Ogni anno a Faenza le band si riuniscono per esplorare le frontiere della sperimentazione musicale. San Giorgi è il presidente di Audio Coop, la terza associazione di categoria di discografici italiani indipendenti, e rappresenta il 5% del mercato italiano. Sono 150 le etichette indies presenti con le loro sedi in tutta Italia. Ecco, torniamo in onda. Io ho subito una domanda a San Giorgi. Questo di cui parliamo, che chiamiamo remix, ci troviamo di fronte a un genere musicale vero e proprio, con la sua nobiltà e quant'altro, oppure sono trovate di marketing per lanciare degli artisti che altrimenti resterebbero in ombra? Parli dei remix, dici? Sì. Ma anche qui non è la parola che in qualche modo dà l'idea definitiva del prodotto. Ci sono remix che partono proprio con l'idea creativa di rimescolare un brano per mettere assieme suoni nuovi, e invece ci sono dei remix che servono solo a tenere vivo un artista che magari ha lanciato un brano per far vedere che ha più coda e quindi continua a vendere grazie a dei remix di DJ o altri artisti che in qualche modo procedono a far circolare il nome del brano. Diciamo che anche qui, voglio dire, a volte parte da un'esigenza naturale, a volte da un'esigenza di marketing. In collegamento abbiamo Giovanni dalla provincia di Bari che ha una domanda. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Mi chiedevo, stavo seguendo in trasmissione, come funzionerebbe momento in cui un'idea diventa... Pronto? Credo che sia caduto. Allora, aspettiamo che ritorni, ma il senso della domanda, che io so perché me l'hanno scritto, non leggo il pensiero, è come funziona il sistema per i diritti d'autore. ovvero come guadagnano questi artisti? Lo chiedo direttamente a Giordano Sangiorgi e dopo però anche a Freioli. Ma diciamo che per quel che mi riguarda il lavoro del cut and mix, che è quello che si fa con i dischi o con pezzi di brani presi da altri artisti o presi oggi, abbiamo sentito prima, dei veri e propri cut and mix, no? Su YouTube o su altri mezzi, come una volta si facevano con i dischi, con dei demo, a mio avviso devono rispondere ai diritti d'autore quando remixano completamente un brano o più brani che sono assolutamente chiaramente identificati. Invece quando si tratta, come succede in casi, ma ne cito uno su tutti, Moby, che è uno dei più noti, ma ce ne sono tantissimi, molti meno noti, che prendono alcune note di basso o di una chitarra o di un altro strumento, li miscelano insieme ad altri suoni provenienti da ogni parte del mondo oppure semplicemente dal condomino che abita sotto il proprio palazzo. In questo caso credo che si debba parlare di opera di ingegno propria, quindi che sia, ecco, i Creative Commons, rinnovare la musica. Dimmi Luca. Dicevo, i Creative Commons possono cambiare qualcosa, cioè il fatto che la musica si possa condividere liberamente per scelta dell'autore, e quindi l'autore dice io non voglio diritti d'autore su questa canzone e quindi la lascio liberamente in rete. Senza il Creative Commons, che culturalmente tarda ad arrivare nel nostro paese, ma e tra l'altro trova anche d'accordo in parte la SIA, che sta cercando in qualche modo di fare un accordo per farla circolare, sicuramente aiuta molto questo tipo di produzione, soprattutto permette ai giovani artisti di entrare nel mercato online senza costi, sapendo che se vogliono il loro prodotto è tutelato, se non vogliono non lo è, quindi direi che è una delle cose migliori per far circolare la musica e creare, come dire, questi laboratori creativi online, che sono le nuove demo che circolavano negli anni 70-80 su cassetta e che rappresentavano la nuova scena musicale. Sì, questo, la metafora degli anni 70 tra l'altro torna anche su determinati esperimenti di radio online, è qualcosa di estremamente ricorrente sia sul fronte musicale che su altri fronti, tra la capacità che ha di internet di convogliare segnali anche deboli della nostra società e farli esplodere. Però non volevo iniziare una zuppa su internet orrenda, ma volevo capire con Francesco Fraioli che cosa invece succede su Towns. Cioè, guadagna qualcuno la canzone o il brano una volta che viene composto, nel vero senso del termine, cioè viene assemblato e ha più tracce, diventa un prodotto commerciale? Allora, diciamo che c'è tutta la fase in cui gli utenti, diciamo, giocano con la musica, che non prevede una vera e propria esportazione, e quindi ci sono, diciamo, tutti i suoni che vengono creati sono di proprietà dell'utente che li ha creati. Okay. Poi ovviamente Towns cercherà di stimolare ovviamente la community che si verrà a creare, stimolare la community con la possibilità di esportare quello che è stato fatto in maniera commerciabile. Quindi, grazie Francesco. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Jacopo che lo osserva, e abbiamo in collegamento Giordano Sangiorgi del MEI e Francesco Fraioli, il fondatore di Towns. Ora però sentiamo un istante, 10-15 secondi, insomma pochissimo, l'orchestra, la sinfonia di YouTube. L'orchestra Internet Sinfonia numero 1 Eroica, cos'era? Sostanzialmente era un altro aspetto di questa musica condivisa, un'idea di YouTube che è stata quella di raccogliere le tracce musicali di musicisti. Loro hanno distribuito degli spartiti, hanno chiesto, insomma, mettetevi davanti a una telecamera, filmatevi, quello che eseguirà meglio il proprio spartito musicale prenderà parte a un grande concerto diretto da Tan Dan, che è un famosissimo credo, vincitore dell'Oscar per La Tigre e il Leone e autore delle musiche delle Olimpiadi di Pechino. Io sono ignorante, non lo sapevo, per cui un grandissimo maestro d'orchestra. Ed è, questo è, come dire, un altro aspetto, un'altra faccia della musica condivisa. È la musica che chiamano in crowdsourcing, quindi fatta con le persone, si chiedono dei brani, dei pezzi di brani, e poi si rimettono insieme. È un grande remix collettivo. E anzi, a proposito di remix, a proposito di internet, a proposito poi di come sta cambiando la musica, vorrei chiedere a Giordano San Giorgi se dal suo punto di vista internet ha danneggiato la musica, o almeno che cosa ha cambiato. Ma diciamo che internet, come tutti gli eventi di innovazione, ha, come dire, cambiato in senso positivo e negativo secondo dei punti di vista. Credo che sicuramente abbia permesso di bypassare tutta la fitta rete della distribuzione, che prima non era affrontabile dai piccoli artisti indipendenti ed emergenti, e in questo caso ci sono artisti che sono riusciti a farsi conoscere realmente dappertutto con le loro capacità, penso. Ecco, non sono in parte fenomeni di marketing, perché c'è sempre questo dubbio. Alcuni veri, Time Tiffany, una sua Said Girl bolognese che è esplosa grazie a internet autonomamente, Pop Porno, la canzone del genio che ha avuto 500.000 downloading ed è esplosa letteralmente da sola, ma tanti altri esempi. Poi è chiaro, ci sono anche quelli di marketing preorganizzati dalle major, ma sono un po' come quando si fanno gli scouting in TV, dove bene o male gli artisti giovani esordienti hanno già le casacche di alcune major che poi riprodurranno. Però da questo punto di vista ha realmente sfondato, come dire, in questo caso dei passaggi, e permesso agli artisti di emergere. Dall'altro sicuramente ha fatto vedere quant'era oramai obsoleto il supporto CD, e quindi da questo punto di vista un calo drastico del fatturato nel settore e la necessità di rivedere quali sono gli elementi di business del settore. Ovviamente è una fase di transizione critica, ma credo che si ritroverà, come dire, quali saranno i modelli per raccogliere questi soldi. D'altronde non saranno né le battaglie antipirateria che le major fanno per tutelare altri major. Ricordo Attali, quello che sta facendo le grandi riforme della Francia, sì, ha detto che con chiarezza che le leggi antipirateria non servono a nulla, che devono essere le multinazionali che vendono PC, telefonini, hardware, software, server, abbonamenti a pagare alla fonte la creatività musicale, cinematografica e culturale, che sanno benissimo che loro vendono attraverso i downloading illegali. Ecco, tra l'altro, l'altro aspetto di business, appunto, legato a internet, è anche in un certo qual modo la ripresa del live, ovvero la ripresa di tutti gli eventi, di tutti gli spettacoli, dai concerti dei gruppi musicali sul territorio, insomma. Cioè, è curioso perché c'è il passaggio quindi dal digitale al fatto che di fatto una importante voce di business ha in un certo modo ripreso. Non solo quello, diciamo una visione proprio a 360 gradi della promozione e produzione di un artista, per cui è stato rivalutato il merchandising, sono stati rivalutati i DVD, è stato rivalutato ad esempio il racconto su libro delle proprie esperienze. Pensiamo a alcuni gruppi emergenti appena nati, dopo poco hanno già fatto un libro per raccontare ai fan e a chi è interessato qual è stata la loro esperienza. In qualche modo c'è un po' più d'attenzione in questo caso all'artista, al rapporto col fan, da tenere fidelizzato maggiormente. Lo dice lunga una presa di posizione sempre recente delle pop star inglesi contro la legge antipirateria, perché dicono: non vogliamo andare contro i nostri fans, tassate, lo dice la WIN, che è l'Associazione Mondiale dei Discografici Indipendenti, noi come Audio, lo diciamo in Italia, siamo associati a loro, ecco. Tassate alla fonte chi... E questa è una delle proposte che stanno un po' movimentando la scena e su cui si sta interrogando tutta l'industria musicale. Noi abbiamo in collegamento Marco Manzella di Kipon. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, lei diciamo che sul tema del live in particolare ha costruito una sorta di mini social network, o quantomeno un sito, nel senso, sì, che questo è l'aspetto che secondo lei è preponderante in questo momento della musica, della nuova musica. Sì, sì, intanto un saluto Giordano, che è in linea, l'amico. Non salutatevi tutti quanti, che poi abbiamo pochissimo tempo. Niente, sì, l'idea è stata proprio quella di fare un social network, sfruttare l'idea del social network per promuovere una rete di locali e soprattutto la rete dei migliori locali italiani che hanno il coraggio di far esprimere le band emergenti. E funziona? Secondo me l'Italia soffre molto di provincialismo, nel senso che i gruppi emergenti hanno la possibilità solo di esprimere la loro musica nella loro provincia, i locali li fanno suonare perché portano amici e parenti, e non si ha una visione, diciamo, globale di quello che è la situazione a livello italiano. Però non è un po' facile dire l'Italia provincialismo? Di fatto poi non è un po' facile la scappatella del provincialismo, di fatto poi la musica è musica, è vero che nel momento in cui si ragiona su musica sul territorio ci devono essere gli spazi, però, e qua arriva la mia domanda, connettere internet con il live dovrebbe essere un binomio che sfugge un po' alle regole del provincialismo. Sarà anche facile, il problema è che i locali soffrono e soffrono tantissimo, e i live delle band emergenti sono sempre meno a vantaggio delle cover band, delle band commerciali. L'artista vero, quello che produce la sua musica, non ha tanti spazi. La nostra idea è quella, dando pubblicità a livello nazionale, aumentare anche l'utenza a livello locale, e più l'utenza a livello locale aumenta, più aumenteranno anche gli spazi per far suonare le band. Ecco, Luca Dello Iacovo, che cosa ha fatto? Geniale, ha deciso, proprio per chiudere questa prima parte, di andare a intervistare Leonardo Chiariglione. Ma chi è Leonardo Chiariglione? È l'uomo da cui in un certo senso è nato tutto. È l'italiano che ha rivoluzionato la musica con l'invenzione dell'MP3. Ascoltate. L'idea MP3 è parte di un progetto più grande che riguarda la transizione dell'audiovisivo dal mondo analogico al mondo digitale. Abbiamo sviluppato degli standard per la compressione del video, abbiamo sviluppato degli standard per la compressione dell'audio. Si aspettava questo successo del formato MP3? Questa è una domanda che mi viene fatta di frequente. La mia risposta è onesta. Sarebbe bello dire sì, era tutto previsto e meno male che il mondo si è accorto che abbiamo fatto la cosa giusta. Allora, la risposta invece è più articolata, nel senso che noi sapevamo che fornendo una tecnologia standard di compressione in grado di fornire qualità molto elevate, ma con un bitrate molto più basso, andavamo incontro ad una richiesta che sarebbe venuta dal mercato, sarebbe venuta dagli utilizzatori finali, anche dai creatori stessi. Quindi noi abbiamo cercato di sviluppare uno standard che facesse le cose giuste. Abbiamo fatto uno standard non focalizzato allo specifico. Abbiamo fornito una tecnologia generica che alla fine degli appassionati hanno preso, hanno scritto dei programmi per il PC, programmi che a fatica giravano in tempo reale, ma poi con l'avanzare delle CPU lo sono diventati sempre di più. E di lì è nata quella valanga che ha sommerso il mondo. Io ringrazio Francesco Fraioli di Towns, Giordano San Giorgi, non riesco mai a dire, Marco Manzella. Si chiama Fast Flip e promette di rivoluzionare il modo di informarsi online. Il nuovo aggregatore di notizie online di Google mette insieme le news dei principali siti di informazione come la BBC, il New York Times e il Washington Post. La missione dichiarata è permettere agli utenti di navigare velocemente attraverso le notizie, sfogliando le pagine come se fosse un giornale. Secondo i manager di Google, questa soluzione conviene agli editori, che con le entrate derivanti dalla pubblicità potranno avere più risorse per l'inserimento di nuovi contenuti. Microsoft torna all'assalto dell'iPod. Oggi ha lanciato una nuova versione di Zoom, il suo lettore portatile multimediale, per fare concorrenza ad Apple. Dotato di touchscreen, radioricevitore e Wi-Fi, costa poco meno dell'iPod Touch. Basteranno prezzo e features tecnologiche a scalzare un'icona. Dopo la doccia, altro che puliti, potreste essere infestati di batteri. Secondo uno studio condotto da ricercatori dell'Università della California, gli erogatori delle docce, specie quelli in plastica, possono rappresentare la sede ideale per colonie di agenti patogeni. Il 30% degli impianti esaminati ospitava livelli significativi di batteri in grado di portare infezioni polmonari. Forse è il caso di tornare al vecchio bagno? Luciano Ligabue è l'artista italiano più seguito su Facebook a livello mondiale. Il rocker, a oggi, ha totalizzato 515.827 amici. Secondo il sito Musica News, si tratta di un numero di fan superiore a quella di molti artisti internazionali. Qualcuno potrebbe obiettare che gli artisti non si misurano con gli amici su Facebook. Altri che al conteggio manca Twitter. Quello che è certo è che nessuno sembra più tenere in considerazione i dischi venduti. Tu quanti amici hai? Ma io 200. Perché poi è questa la fine che faremo, cioè il valore giornalistico sarà legato anche agli amici su Facebook, anche ai follower che abbiamo su Twitter. Faremo delle classifiche tra chi ha più amici e chi ne ha meno. Sarà tremendo. Invece non è tremendo il fatto che abbiamo Novalab, che è Twitter, che ci si arriva attraverso www.twitter.com/novalab24. Lì scriveremo tutti gli indirizzi internet, tutto quello che vi abbiamo segnalato durante la trasmissione. Quindi potrete entrare nel mondo di Towns, potrete scoprire che cosa sono i Creative Commons per la musica, queste parole oscure che però poi sono molto più chiare se provate a scavare appunto attraverso i link che poi vi andremo a dare man mano. E poi non solo, l'intenzione è anche quella di arricchirlo con contenuti relativi a quello che sta scritto su Nova 24, lettere, pensieri, parole, opere, missioni, insomma cercheremo di convogliare dentro al Twitter di Nova Lab un po' della potenza di fuoco dell'ecosistema Nova. Sì, diventa un raccoglitore dove tutto può essere messo insieme e tutto può essere esplorato seguendo un po' la Serendipity, il caso. Ecco, no, con Serendipity ne abbiamo fatti scappare 40 di ascoltatori. Però l'altra porta per raggiungerci è la cara buona vecchia mail novalab24@radio24.it. E ora un'anticipazione rapidissima sulla puntata di domani, che andrà in onda sempre alle 16. Parleremo di filantropia. Attenzione, perché Luca Dello Iacomo ha guardato come dire, però sono cose importanti ed è dono, e quel dono così raro che poi manca. Quindi economia del dono tradotta nel web 2.0. ci sentiamo e l'appuntamento è per domani. Arrivederci.